Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. Il caffè Gambrinus si trova all'angolo di piazza Trieste e Trento con la tortuosa via Chiaia. Vi avevo passato molte ore nelle mie notti napoletane e lo ricordavo grande, pieno di fumo, di specchi. Adesso, fin le vetrine mi sembravano più piccole. Come uscendo da un sogno talvolta cadete in un altro e il cervello appena desto di nuovo s'oscura e dentro una mano invisibile accende ancora miriade di lampade, così vidi persone che avevano riempito tutte le pagine del dopoguerra a Napoli, ma le rividi senza l'alone allegro del dopoguerra, nei vapori di una sera d'estate. Il primo del gruppo era il figlio del colonnello Prunas. Aveva scarpe nere, piccole, da bambina, come del resto le sue mani scure e tutta la minuta persona erano più simili a quelle di un adolescente che di un uomo. Pallide lenti gettavano un'ombra sul suo viso inchinato, di un bruno giallo, magro e silenzioso. Solo le labbra erano animate da un sorriso impercettibile, pieno di ostilità, mentre il resto del volto rimaneva impassibile. Era così fermo da sembrare morto, morto in piedi. Invece ascoltava. Al suo fianco, un po' curvo in atto di sfogliare certe carte, stava l'uomo che avevo creduto intravedere a una finestra di via Giacinto Gigante. Doveva aver lasciato Milano da qualche tempo. Calzoni neri, attillati, gli fasciavano le gambe alte ed esili. Una camicia di seta bianchissima gli vestiva il petto incavato e le braccia. Sul mento gli era cresciuta una peluria bionda, a punta, che accentuava l'espressione estatica, scoraggiata e avida insieme del volto e degli occhi. La sua testa si muoveva in qua e là, rassomigliando in qualche modo a due cose, a un'aquila morente e un fiore. Aveva la stessa dissanguata ferocia e la grazia. In una delle mani reggeva delle carte nitidissime, coperte di una larga e confusa scrittura, nell'altra una sigaretta. Una tazza da caffè vuota era posata sul banco davanti a lui. Un poco distante da questi due giovani e guardandoli vagamente, un uomo ancora giovane, alto, il viso stretto e pallido, conversava affabilmente e ogni tanto si interrompeva per un piccolo sbadiglio. Era Nino Sansone, direttore dell'edizione napoletana dell'Unità. Non aveva l'aria di stare in quella compagnia con piacere, ma neppure con disgusto, piuttosto con una pacata rassegnazione. Intorno, come selvaggi uccelli bianchi, andavano e venivano le bluse attillate di molti marinai USA. Le porte a vetri si aprivano e chiudevano continuamente per lasciare passare questa gioventù che saliva dal porto, pieno anche quel giorno di pallide navi d'acciaio. Il primo a notarmi fu il Gadkens, che smise di leggere e fece «Oh!» lentamente. Il Prunas se ne accorse di riflesso e volse il capo con un'espressione che fu a un tempo di sorpresa e di timore. Il tenue sorriso crebbe e poi disparve di colpo dal suo viso silenzioso. Franco entrò prima di me nel locale dicendo queste semplici parole «È tornata e vi saluta». «Bene, come stai?» disse il Gadkens. «Noi eccellentemente». In questa franchezza, che andava al di là del necessario, pari piuttosto a una sfrontatezza, e nell'estrema calma il sorriso di chi non potrà mai più sorprendersi di alcuna cosa e neppure patire o gioire se non meccanicamente, lo riconobbi. Strinsi questa e quell'altra mano, e notai che tutte erano asciutte, un po' fredde, non sudate come quelle di Luigi, né roventi come quelle di Rea. Subito dopo, il Prunas si tolse gli occhiali, con un gesto che gli era abituale nei momenti d'angoscia, e li pulì contro la camicia. Gli occhi apparvero grandi, neri, assorti, appena segnati da un filo rosso di stanchezza e senza alcuna luce. «Due caffè!» ordinò Franco appoggiandosi tutto nella sua stanchezza al banco e, rivolto a Nino, «Una donna si è buttata dal balcone mezz'ora fa e devo correre a fare l'articolo». «Sì, sì, ho sentito», rispose con un piccolo sbadiglio il giovane. «Passando per Santa Brigida ho sentito commentare l'accaduto. È morta subito». «Qui si uccidono sempre allo stesso modo», disse il Gadkens con ironia. «Il balcone. I balconi e le finestre della nostra città sembra non abbiano nessun'altra funzione». Il Prunas non fiatava. «Vedo che sei tornato a Napoli», disse al Gadkens. «Ti credevo a Milano». Gettai lì queste parole nella speranza che smuovessero qualcosa. Da alcuni momenti provavo la stessa agghiacciante sensazione di quando mi ero fermata a contemplare Vicorotto, che tutto fosse un'inquietante rappresentazione. «Non proprio a Napoli, ma nel mezzogiorno. Vivo a Ostia e il sabato torno a vedere il Vesuvio». «Come potrai immaginare», mi spiegò ridendo, «il Vesuvio è solo un modo di dire. In realtà mi tengo in contatto con gli amici». Su quali fossero questi amici non rimaneva alcun dubbio. Uno di essi era là, col viso pallido, attento. Mi sentii osservata con un'intensità terribile e scopersi dietro gli occhiali che il Prunas si era rimessi un dolore e una curiosità infinita. «Devi avere pietà», dicevano quegli occhi spenti. «Devi evitare di guardare. È vero che siamo morti?» chiedeva. «È vero che siamo stati assorbiti dalla città e ora siamo in pace?» Forse mi sbagliavo, perché il ragazzo disse a questo punto, con un accento rapido e duro che smentiva quella supplica, «Ti sembreremo dei provinciali, immagino». «Affatto», stavo per rispondere, ma ero turbata. Il giovane di sinistra sbadigliò ancora. Era un tic soltanto, ma dava al suo fine volto un'espressione di distacco e di noia, mentre invece tutto il suo cervello pensava. «Io non andrei a Milano perché qui ho il mio lavoro», disse. «Ma non capisco chi ha trovato del lavoro a Milano e lascia quella città per tornare nel sud. Oh, non faccio allusione ai vantaggi economici, ma Milano è incantevole, specialmente l'inverno con le sue nebbie. È una vera città standaliana». «Su questo possiamo essere d'accordo», ammise il Gadkens. Franco mi porse il caffè, che intanto era sceso, tutte cupe stille, nelle due tazze. «Quando sono stanco», proseguì Nino, «sogno spesso di passare a Milano un inverno. Mi rinchiuderei in un alberguccio della periferia e rimarrei intere giornate a guardare la nebbia, seduto dietro una finestra. Sapete che una volta sono stato in Normandia? Che pace! E come soltanto immaginato il rumore del mare. La nebbia rinnova per me queste sensazioni di quiete, di vita insieme». Nel dire ciò, i suoi occhi divennero più neri e dolci. Il viso si abbassò, un altro piccolo sbadiglio torse la sua bocca e, senza aggiungere altro, il direttore del quotidiano di sinistra disparve. «Divertente», disse il Gadkens mentre uscivamo. Le sue labbra sorridevano, ma gli occhi si erano fatti pensierosi. Ci avviammo così in gruppo, senza parlare, per la strada di Chiaia incassata tra Monte di Dio, che si raggiunge con un ascensore, e le degradanti propaggini del Vomero. Non sapevamo dove saremmo andati, e non avevamo alcuna intenzione di andare in qualche posto. Ma una volta per le vie di Napoli, non potete fare a meno di muovervi in questa o quella direzione così, senza alcun proposito. Di solito, giunti a Napoli, la terra perde per voi buona parte della sua forza di gravità e non avete più peso né direzione. Si cammina così, senza scopo, si parla senza ragione, si tace senza motivo, eccetera, eccetera. Si viene, si va, si è qui o lì, non importa dove. È come se tutti avessero perduto la possibilità di una logica e navigassero nell'astratto profondo, completo, della pura immaginazione. Una cosa avvertivo alla mia sinistra, dove camminava il ragazzo Prunas. Ed era questa cosa un dolore così concreto, così smisurato nel suo silenzio, da costituire il solo contrappeso possibile alla dolce anarchia della terra. Da pochi momenti, dal breve colloquio al Gambrinus, quel dolore si era fatto coscienza, lucidità, violenza. L'amico della ragione mi odiava per le memorie che gli riportavo, per lo specchio che gli offrivo, concavo specchio dove la sua giovinezza si deformava. Ed era ancora strano come, sotto quella specie di morte, quella vaga decadenza di pelle, sguardi, parole, io sentissi battere ancora, a colpi secchi, la vita. Il ragazzo di un tempo, vivo sotto quella morte, pensava. Ed ecco il dialogo che si svolse mentre passeggiavamo e anche Franco aveva dimenticato l'urgenza dell'articolo fra noi. Prunas, anche noi saremo divertenti, mi immagino. Io, no, non troppo. Prunas, questo è ancora peggio, naturalmente. Gadkens, ma per fortuna niente può offenderci, questo è il solo vantaggio di Napoli. Franco, e poi qualunque cosa pensi, noi la pensavamo. Prunas, allora, di la verità. Mi ricordai quante volte il Rea mi aveva assalita con questa curiosa interrogazione e dissi al Prunas che mi colpiva in quel momento trovare in lui le stesse particolarità ossessive del Rea. Sapevo che questa osservazione gli avrebbe fatto male. Infatti, gli vidi abbassare il viso e sorridere del suo breve e triste sorriso, ma un momento dopo aveva rialzato il capo e notai che in quella testa c'era una forza di bestia selvatica, di generazioni intatte, incapaci di pensare veramente la parola morte. A Napoli il ragazzo sarto si era coperto di miseria, ma non era morto. Era antico, ma non morto ancora, perché incapace di pensare nella sua testa la parola morte, incapace di commuoversi e farsi triste, se non a momenti, e subito dopo dimenticandolo. La sua sete di vita, la sua capacità di costruire vita, soffocate, enormi. «E Rea come stava?» mi chiese. «L'avrai visto, immagino?» «Sì, l'ho visto.» «Allora avrai visto anche Luigi, Incoronato, la Capria?» «Luigi, sì. Incoronato, la Capria, no, e neppure Michele, solo Pratolini.» «Ah, ed era soddisfatto Pratolini, mi immagino?» «Sì, non del tutto, però.» «A motivo di Rea, mi immagino.» «O di Napoli, che è lo stesso», dissi io. «E non posso dargli torto.» «Perché?» disse il Prunas. «Napoli non ti soddisfa?» «No», risposi. «Questo silenzio non mi soddisfa.» «Perché? Non parlano forse tutti?» disse allegro il Prunas. «Dove sarebbe questo silenzio che ti impressiona? Ah, hai mai visto una città più loquace?» «Non l'ho vista, davvero. E nemmeno così silenziosa.» Camminando c'eravamo disposti in questo modo. Il Prunas e io avanti, il Gadkens e Franco dietro. Il Gadkens parlava, e la sua voce rassomigliava al silenzio. Era la voce di uno che amava la forma, sempre squisita e perciò remota, non voce d'uomo, ma eco. Franco gli rispondeva a monosillabi, a volte non gli rispondeva affatto, e sentivo, dietro quei monosillabi o silenzio, un discorso più completo. Il Prunas, a quelle mie parole, non aveva obiettato nulla, abbassando di nuovo il capo. Mi ricordavo che da queste parti, una volta, c'era stato il circolo del cinema. Il Prunas, chiuso il giornale, non aveva avuto pace finché non aveva trovato da fare qualche altra cosa e si era messo d'accordo ancora una volta con i tristi uomini della voce, ora l'Unità. Aveva così, poco alla volta, preso la direzione del circolo del cinema e portato nelle sale di Via dei Mille, fra molti altri film, l'Incrociatore Potionkin. Era stata quella una mattinata incredibile, con la sala piena di visi attoniti, feriti profondamente da qualche cosa. Non parlavano, ma assorbivano tutto. La feroce nudità, il coraggio, la musica profonda delle inquadrature. All'uscita e nei giorni seguenti avevano fatto capo tutti alla Sant'Orsola, una stanzuccia piena di libri tra il Palazzo Cellammare e il Ponte di Chiaia, adibita originariamente a biblioteca. Era un tempo di primavera e il cielo di Napoli aveva lo stesso colore di un cielo d'Europa, dove gli uomini camminano. Molte speranze erano nate in quel giorno, strane speranze tra la veglia e il sonno, e avevo visto Renzo la Piccirella e gli altri uomini dell'unità sorridere, conversando gentilmente con gli ultimi ragazzi della rivista Sud. Eravamo giunti in quel punto, adesso, tra il nobile palazzo ed il ponte, davanti ai cancelli della Sant'Orsola. Questi cancelli erano aperti e anche la porta del locale, in fondo al breve cortile, era aperta. «Entriamo?» dissi. E mentre lo dissi mi domandavo se ci eravamo veramente fermati davanti alla Sant'Orsola o non avevamo sbagliato di una o due porte. Né il Prunas, né Franco, né il Gadkens risposero. Questi ultimi sembravano imbarazzati, mentre il figlio del colonnello guardava dentro, indifferente, impassibile. Guardai anch'io, ed ecco ciò che vidi. La stanzuccia, dove un tempo si radunavano i ragazzi, era fiocamente illuminata, non come prima, quando molte lampade gettavano intorno una bianca luce. Al posto del tavolo c'era adesso un breve banco, e dietro quella specie di cassa, una donna barbuta e bruna, con grandi occhi languidi sotto la fronte torva, sedeva vendendo dei biglietti. Un po' di gente, incantata e magra, sostava davanti a quel banco, osservando un cartello dove c'era scritto «Ingresso lire 150». Un po' guardavano il cartello, un po' una tenda scura che nascondeva la porta di un'altra stanza. Di là, da quella porta, venivano un silenzio e un freddo singolare, come se vi giacessero delle serpi. Qualcuno entrava, qualcuno usciva, poveri uomini e donne, con in viso un'eccitazione anormale. A un certo punto, dietro la tenda rimasta aperta per un attimo, brillò qualcosa di chiaro, e in quella cosa, niente più di una bara di vetro, si vedeva una forma allungata. Era un uomo vestito di nero e sorridente, che guardava intorno pazientemente, fumando una sigaretta. Iaia Forte ha letto Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.